Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, e questo sabato 14 di gennaio, auguri a chi si chiama Felice, e noi siamo felicissimi di stare con voi in questo sabato. Vabbè, siamo anche un po' degradati però, fammi dire, cioè, ti vedo degradato. Ma io sono felice del degrado. Vedo che il tuo lato B, anzi il tuo lato tripla B, mi sembra un po' degradato. Cari ascoltatrici, non pensate male. È la perdita dell'A che l'ha come fatto. Vedete, i miei compari sono tutti in studio, ormonalmente molto carichi, ma siamo perché? Tutti maschi. No, qui lato B, cose. Care ascoltatrici, il lato B c'è del debito italiano, cosa hai capito? Allora, ordine e disciplina. E disciplina, oh, ordine e progresso, come direbbero in Brasile. Quella è la bandiera brasiliana. Esatto. Vedo che niente, non c'è sono ancora reduci dalle bollicine di ieri sera, tutte quante. Allora, innanzitutto, cari ascoltatori, felici di essere con noi e vi ricordo su cosa potete telefonarci in questa trasmissione. Ci potete telefonare su tutto, come ovvio, ma l'800240024 e le opinioni 349-238-6666. State attenti che a leggere Mario Seminerio, quindi sapete che oramai non me ne passa una, perché è come fare una parete di sesto grado. Ma detto tutto questo, oggi la trasmissione ha il solito inizio in cui vediamo i begli effetti di questo downgrading del rischio sovrano italiano e che conseguenze ha. Parleremo un po' delle liste e delle nere dei creditori insolventi di MPS, di qualche ulteriore bolla che esce fuori dalle quattro banche risolte, è una lista senza fine di costi aggiuntivi di cui apprendiamo, e insomma dopo il punto, come al solito, cominciando con il grande Mario Seminerio. Invece la trasmissione si sviluppa su tre grandi questioni. La prima grande questione è quella che ci porremo con Luigi Maratin, che è un docente di macroeconomia a Bologna, ma soprattutto è ex consigliere economico di Renzi, attuale consigliere economico alla Presidenza del Consiglio. E la domanda che ci poniamo è: ma insomma, questo bilancio delle riforme del governo Renzi, visto che ci downgradano il rating, visto che si esprimono, e il motivo, come vedrete tra poco, è proprio il dubbio manifesto e certificato sul proseguo delle riforme, sulla stabilità italiana e così via, visto che si perdono pezzi per strada, vedi la scuola, visto che la CGIL era all'assalto con il referendum sul lavoro, insomma, che bilancio trarre? Erano meno forti di quello che sembravano e di come venivano definite, oppure momento di, per così dire, perplessità delle file PD e poi andranno avanti? Ecco, questa prima questione, quindi diteci cosa ne pensate delle riforme di Renzi, parentesi chiusa o parentesi che verrà ripresa. Dopodiché ci occuperemo di questa grande rilancio internazionale dello scandalo delle emissioni delle auto diesel, che sembrava oramai contenuto, perché se ricordate esplose a settembre 2015 Volkswagen, che ha appena praticamente fresco d'inchiostro l'accordo per i 4.3 miliardi di dollari con le autorità federali americane. Certo, pagherà molto per i processi di class action, però alla fine è il primo produttore del 2016 con 10,6 milioni di vetture, quindi sembrava una cosa poi rientrata, ma rientrata anche perché in Europa insomma si è dormito parecchio. Adesso sapete che la cosa è riesplosa con i dubbi espliciti posti dalla autorità federale statunitense verso simili device malevoli, artatamente truffaldini, montati su alcune vetture Fiat Chrysler. In realtà anche l'autorità tedesca aveva posto lo stesso dubbio su alcuni modelli di Fiat Chrysler, e c'è un problema aperto in sede europea. Ieri i magistrati in Francia hanno rilanciato le accuse su Renault. Tenteremo di capire con un ingegnere esperto del settore quale sia la sostanza dietro tutto questo rincorrersi a distanza di 2 anni oramai di questioni, e soprattutto quali condizioni strategiche tecnologiche sono di fronte a noi, cioè tenuto conto degli abbattimenti di costi delle tecnologie, per esempio degli ioni di litio e così via. Insomma, questo 50% del mercato grasso di diesel sparisce anche per i costi, per avere device sempre più avanzati per abbattere le emissioni di ossidi di azoto e di CO2, e quindi dobbiamo cambiare la testa rispetto al diesel oppure no? Ecco, diteci come la pensate anche sul caso Fiat. E oltre a questo, cari compari, che sono tutti con me in studio, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Renato Cifarelli. Mario, che altro aggiungere? Che ti ha colpito oltre a tutto questo? No, io volevo fare una piccola apertura diversa dal solito, rubare il lavoro a Renato e fare una specie di non si può fare, per fatto personale, però vedrò di proteggere gli innocenti e di coprire i nomi. Allora, voi dovete sapere che io so che non ve ne può fregare di meno, però questa è l'introduzione. Ho cambiato lavoro da un congruo numero di mesi, e avendo nel mio precedente lavoro un fondo pensione, un'integrazione previdenziale privata, sto disponendo il trasferimento presso il fondo pensione del mio nuovo datore di lavoro. Questo fondo pensione, che tarda in maniera considerevole il trasferimento, perché pare sia una cosa molto faticosa, allora ho cercato di mandare, come dire, una comunicazione formale al gestore del fondo pensione, che, ebbene hai fatto, che è una banca italiana, diciamo. Ci va tutto a termini di reclami, Covid e quant'altro. Quindi che cosa faccio? Cerco sul sito di questo fondo pensione il loro indirizzo PEC, procedo, invio questa comunicazione e mi dà immediatamente la casella PEC un errore, al che trovo il numero di telefono di questo fondo pensione, chiamo e mi dicono: ah, com'è possibile che non, che no, guardi, mi dice che l'indirizzo è sconosciuto. Controllano sul sito e si accorgono che l'indirizzo PEC che hanno scritto sul sito è sbagliato. Ah, è sbagliato. Era su un stagista. Sito pubblico. Sì, è sempre colpa degli stagisti e dei deschisti quando parliamo dei giornali. Però è successo così. Dopodiché mi hanno dato, pare riservatamente a sto punto, l'indirizzo corretto, e dopo un po' l'indirizzo corretto è comparso sulla pagina web. Quindi vedi, Carlo Alberto, che, come dire, la tecnologia avanza, la comunicazione migliora. Questo è un paese che ha problemi seri e gravi e ingravescenti di comunicazione oltre che di tecnologia. Quindi per me la prognosi resta sempre sfavorevole. Vabbè, vedi, però sei pessimista, perché ultimamente puoi comprarti 3 banche a un soldo, se posso dire. Sì, e cito, sì, Marco Nado sulla voce, che è un bel pezzo. 3 banche a un soldo, ragazzi, 1 euro per 3 banche, 1 euro più 6 miliardi, se posso dire. No, esatto, perché esatto. Certamente, voglio ricordare a tutti che recuperare alla vita ordinaria, non ho detto salvare, ok? 3 banche, non 4, 3 su 4, è costato al sistema bancario circa 6 miliardi ed è costato ai cittadini italiani circa 1 miliardo di mancate tasse. Il deal firmato da un tignoso, ma devo dire anche molto abile, Victor Massia in UBI, che si è fatto pagare praticamente miliardi per rilevare 3 delle banche risolte l'anno scorso, anzi 2 anni fa ormai, e i loro crediti d'imposta, esattamente, farà scuola, perché è costato al sistema bancario italiano una cifra inenarrabile. Ora io, Oscar, voglio dirti questo: se per salvare l'1% l'1% degli attivi del sistema bancario italiano servono 6 miliardi, chissà se anche Di Maio riesce a fare le moltiplicazioni. Vabbè. Però scusate, ma il presidente dell'ABI, che giustamente diciamo, recriminava contro il mancato salvataggio... Quello attuale o il precedente? No, l'attuale. Il precedente lasciamo stare. Quando Patuelli diceva... ma è l'Unione Europea che non ci ha permesso di intervenire col fondo interbancario. No, però poi siamo intervenuti col fondo di risoluzione, abbiamo chiamato le rate dei prossimi 3 o 4 anni, alla fine anche lo Stato ci mette del suo con i crediti differiti, e alla fine, dottor Patuelli, lei potrà convenire con noi che se non è zuppa e pan bagnato, il danno è devastante, anche se si fosse potuti intervenire, diciamo, con una struttura interbancaria classica, il danno sarebbe comunque stato devastante. Quindi alla fine i conti tornano, anche se siamo in una repubblica particolare, perché la repubblica in quanto tale sarebbe una cosa, siamo in una repubblica particolare che si chiama Italia, dove i meccanismi bancari erano rappresentati in una maniera, si scoprono nell'altra, di mezzo c'è il silenzio su collusioni per anni. e c'è ancora qualcuno che scrive che è un complotto internazionale perché ad altro è consentito ciò che a noi non sarebbe consentito. Esatto, esatto. Qui ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupare. Che era praticamente, caro Mario, il titolo della nota con cui DBRS ieri ha passato di un notch il rating sovrano. Praticamente era quello. Ricordati, sì, sottotitolo non ci resta che piangere. E il ministro dice, adesso mo segno appunto. Allora cominciamo di lì. Che dite, sì. Che dite, Mario, che dite? Ma era abbastanza atteso. Adesso vedo che è già iniziata la guerra di religione. È stato per il no al referendum o è stato perché comunque questo paese non riesce a crescere malgrado le cosiddette riforme di Renzi? Adesso durante la trasmissione ne parleremo, sì, diciamo, anche con il nostro, con il nostro ospite Luigi Marattin. Però io vorrei dire questo. Allora, Padoan segnala che questo declassamento non avrà impatti significativi perché le banche avevano già, le banche italiane in media forse, usavano già margini di garanzia più elevati. Però c'è da dire che sta venendo meno la convenienza relativa ad avere in portafoglio titoli di Stato italiani, perché a sto punto basta avere, non so io, un titolo di Stato di qualunque altro paese, ovvio che rende un po' di meno, però sotto quell'aspetto funziona. Allora questo mi fa pensare a quanto è illusa quella linea di pensiero, no? Che se ricordate, quando i tedeschi lanciarono l'idea di mettere una ponderazione per il rischio ai titoli di Stato posseduti dalle nostre banche, ci fu una levata di scudi, sì, gigantesca, certo, da parte di tutta, certo, la stampa italiana, no? Nessuno tocchi i nostri BTP che li abbiamo fatti noi con le nostre manine d'oro. Per cui, cioè, alla fine, anche qui, è tutto un gioco di specchi. Io personalmente non credo che questo declassamento avrà impatti devastanti e neppure particolarmente significativi, perché comunque i volumi di credito restano stabili su livelli storicamente bassini, quindi non è che le imprese stanno tirando, sì, più credito, quindi non credo che ci, però è chiaro che poi vabbè, DBRS ci ha dato l'outlook stabile. L'unico vero problema sarà per i nostri complottardi cercare di capire com'è che un'agenzia canadese non fa parte, da sua volta di questo grande complotto pluto giudaico massonico per affondare l'Italia, però alla fine riusciranno a trovare qualcosa. Però Mario, posso dire, il risultato è evidente che i costi di finanziamento delle banche italiane aumentano, certo, poi più o meno relativamente, sì. E l'altro risultato evidente, i calcoli di Rabobank dicevano che se stuplica il collaterale medio da depositare in BCE per chiedere i prestiti, ora qualche banca si è potuta permettere, aspetta, di avere l'abbondanza. Questo se stupplica è un po' esagerato secondo me, perché se dall'1,5 al 9%, e a seconda della duration passa dallo 0,5 al 6. Se tieni conto che gli eligible assets per la liquidità sono anche di altro tipo, mi sembrava un po' tirato questo però... invece fammi dire che non è tirato, no, perché è una media ponderata, quindi non è tirato, è una media ponderata rispetto a quello che depositano come collaterale. Ma il vero problema è che qualcuno era già tiratissimo prima e siccome gli scadono le obbligazioni, qualcuno a caso era già tiratissimo, giusto, ha subito un'emorragia di liquidità, giusto, in uscita, sì, gli, sì, scadono le obbligazioni e deve rimborsarle, giusto, ragazzi, il problema non è la media, il problema è che qualcuno adesso veramente va in asfissia perché semplicemente il collaterale aggiuntivo non ce l'ha, ovvero non ha altre garanzie, non ha altre garanzie, questo è il problema. Poi vediamo chi si paleseranno nei bilanci dei prossimi mesi. Per cui si emettono bond bancari garantiti dallo Stato, che tuttavia ha l'ERCAT aumentato, e vabbè, andiamo avanti così. Vabbè, quindi è l'effetto a catena, Mario, che va spiegato, perché sì, in sé il singolo effetto individuale è limitato, ma l'effetto a catena è, che passa dai titoli di Stato, dalla minore appetibilità, dal fatto che a questo punto finiscono anche i collaterali a disposizione, e a quel punto vedremo che cosa succede delle banche sotto tensione. E allora io vi dico che se c'è una cosa che questa settimana mi ha colpito e che mi è sembrato il bacio arrivato dal principe sulla principessa dormiente sono le parole pronunciate nell'audizione parlamentare dal ministro Padoan. Perché stavo aspettando, ma oramai avevo staccato tic tac la sveglia, l'avevo spenta dopo... sono quasi 36 mesi di governo, a marzo sono 3 anni, e io non credevo più che il ministro in Parlamento osasse dire la verità, e cioè che, ma guarda un po', testuali parole, in alcune banche, alcune per carità di Dio, in alcuni casi, alcuni per carità di Dio, sono stati venduti da parte delle banche a clienti che non dovevano essere soggetti a cui sottoporne l'acquisto dei titoli che non erano riservati per il profilo di rischio patrimoniale di portafoglio di quel cliente. E in alcuni casi, ha aggiunto, oltre che comportamenti impropri, si è trattato di evidenti illeciti. Clap, clap, clap, signor ministro, ma perché non l'hai detto 36 mesi fa, quando era già evidente? Però, detto questo, questa cosa mi ha riempito il cuore, perché vuol dire che è troppo tardi. Di solito queste cose si dicono quando è chiaro che tutti i buoi sono scappati. Scusate se ve lo dico fuori dai denti. Oppure quando è cambiato il clima politico di un governo che forse con le orecchie basse e un po' più di umiltà affronta i problemi con uno stile diverso. Io, scusami, fammela avvolgere in positivo, insomma non è il caso. Devo dire che questo secondo governo sarà anche una fotocopia, ma il come dire, lo stile è cambiato. Cioè la cifra comunicativa è completamente diversa, secondo me. Sì, sì, comunque, questo non c'è dubbio. Comunque intanto però la produzione industriale italiana va bene, come del resto va bene la produzione industriale di tutta l'Eurozona e dell'Europa. Il sentimento economico è migliorato, perché questo bisogna dirlo. Bisogna dirlo, certo. Al punto che ci sono già delle case di investimento, delle banche che fanno previsioni economiche che prevedono per l'Italia il raddoppio della crescita nel quarto trimestre 2016. Per esempio, sì. Barclays vede l'Italia da più 0,1 a più 0,2. Sì, ecco. No. Forse è meglio che tu dica che stai parlando ironicamente, perché sennò. Sì, no, però, vabbè, ragazzi, io vi voglio provocare, che lo so, Mario, lo so. Questo è l'effetto Trump, però voi continuate. Sì, sì. Ma non era la Brexit in realtà che fa crescere così tutto quanto? Vabbè. La Brexit più Trump. Più Trump. Sovranismo economico, sovranismo, le monete. Ma c'è di tutto, stampiamo adesso esatto. il Regno Unito farà un accordo clamoroso di libero scambio con la Nuova Zelanda. Cioè voi pensate, le pecore neozelandesi, ma non erano già nel Commonwealth? No, sì, le pecore neozelandesi dopo 15 ore di volo arriveranno sfinite, però questo, e soprattutto la teoria gravitazionale del commercio estero, a noi ci fa una pippa, diciamo. Però se posso, ieri il Guardian a Londra ha rivelato una cosa importante. Sembra che Barnier, che è il commissario delegato a negoziare europeo, abbia chiesto uno status speciale per la City di Londra, perché insomma ricordo che Londra, la City, intermedia più di metà degli interscambi e più di 3/4 dei contratti di copertura finanziaria d'Europa, quindi è il nostro cuore pulsante, lo è sempre stato. Perdere l'accesso alla City sarebbe gravissimo per tutta Europa, in particolare per quei paesi, uno a caso, in gravi difficoltà finanziarie, che hanno bisogno di strumenti sofisticati per coprirsi i rischi, uno a caso il nostro. Quindi stiamo negoziando per avere, almeno come Hong Kong, no? Per avere accesso a Londra, perché un'eventuale uscita di Londra come città dal nostro spazio comune, dal passaporto finanziario, è vero che danneggerebbe loro, ma danneggerebbe dentamente anche noi. Questo è un primo segnale importante di chi festeggiava come un straordinario successo l'uscita della Brexit. Farà malissimo alle finanze italiane. Fatemi tornare sull'argomento da cui abbiamo cominciato oggi, credito, le banche, eccetera, eccetera, perché prima di un rapido giro di opinioni su cosa pensate delle liste nere di creditori insolventi, io desidero sottolineare ai nostri ascoltatori che oggi su questo tema, sul tema delle banche, degli interventi di sistema, avete sentito prima Mario che parlava, rivolgendosi retoricamente al presidente dell'ABI, sui fondi di sistema raccolti dalle banche sane per dargli a quelle malate. Oggi c'è un bellissimo articolo su Repubblica, scritto da Ferdinando Giuliano, che trovate nelle pagine di Economia di Repubblica, un lungo articolo dedicato a un'analisi appunto di Atlante, lo strumento nato per, tra virgolette, riprezzare l'intero mercato dei crediti deteriorati e anzi riprezzare l'intero mercato dell'equity bancario italiano. Queste furono le dichiarazioni testuali nelle slide in cui si proponeva un ritorno non inferiore al 6%. Sì, come no, come no. Ecco, Ferdinando Giuliano, a distanza di tempo, dopo 9 mesi, analizza tutti i fondamentali di Atlante, della sua raccolta, del suo rendimento, dell'efficacia dei suoi interventi. Il titolo esprime il giudizio, ma vale la pena di leggerlo perché è un articolo non polemico, un articolo dettagliato, serio sui numeri. Titolo: Atlante, il gigante debole che non salva il credito. Ripeto, che non salva il credito. E mi dispiace dirlo perché Alessandro Penati alla sua guida è per me un punto di riferimento da molti anni, quindi non cambio minimamente idea, ma i dati di fatto sono questi. Allora, chi si candida a spiegare perché a noi le liste nere dei creditori insolventi sembrano non proprio una bella trovata? Renato! Per una volta fatemi parlare. L'unico che lavora di noi, prego. No, beh, dai, visto che io tutto sommato faccio parte di una delle parti in causa degli insolventi. Tu sei un insolvente. Io non sono un insolvente, il giorno in cui per fortuna la mia azienda, il giorno in cui chiude un conto corrente con una banca, si fa dare indietro i soldi, quindi... Tutto sommato. E il giudizio che date sulla banca, non quello che la banca dà su di voi. Infatti, io faccio parte di quelli che dicono: mi porti il bilancio della sua banca, non esatto. Mi porti lei il bilancio. E quindi come la pensi? Sei d'accordo quindi? Io sono assolutamente non d'accordo, nel senso che allora, intanto purtroppo sappiamo benissimo che c'è una certa ignoranza, e l'abbiamo visto anche in un sacco degli articoli che sono stati scritti, fra quelli che sono i debiti insolventi e quelli che sono i fidi e gli affidamenti. Mm-hmm. Nel senso che in molti articoli sono stati mischiati artatamente, direi, il fatto che qualcuno avesse enormi fidi col fatto che qualcuno fosse insolvente. Sono due cose diverse. I fidi, cioè chi paga regolarmente il suo debito, nessuno pubblicherebbe il nome di uno che sta pagando il suo mutuo. Ah no, certo. Eccetera, eccetera. Cioè, i grandi prenditori non equivalgono ai grandi non restitutori. Ecco. Allora, poi il discorso dell'insolvenza, secondo me ha molto più senso dire chi è stato a dargli i soldi. Cioè, chi non ha fatto il suo lavoro, perché io tra l'altro ho anche un'esperienza di fidi, nel senso che ero nel consiglio amministrazione comitato tecnico della Federfidi, che è un consorzio di garanzia di secondo livello, e quindi facevo alla fine il lavoro che dovrebbero fare i bancari quando danno i fidi. La verità delle mega insolvenze che abbiamo è che abbiamo avuto una crisi pazzesca del settore immobiliare, che era quello, uno di quelli più indebitati in assoluto, perché negli ultimi anni aveva fatto una specie di castello di carte, per cui tu compravi un immobile sul quale facevi un affidamento per comprare un altro immobile, sul quale facevi un affidamento per comprare un altro immobile, e tutte queste queste garanzie che una volta piacevano tantissimo alla banca, perché perché chi fa il mio mestiere si ricorda che 10 anni fa o 15 anni fa la banca ti diceva: ah, ma non hai il capannone, allora cosa mi dai in garanzia? Adesso se vai là e gli dici: scusi, le do il capannone in garanzia, ti guardano e ti dicono: scusi, anche se non me lo dà è lo stesso, siamo già pieni, grazie. Quindi la verità, infatti, poi delle liste che sono uscite, cosa sulla quale io non sono d'accordo, si vede. La verità è che sono stati dati la maggior parte dei soldi agli immobiliaristi, la bolla immobiliare è scoppiata e fine. Più un bel po' di credito relazionale a imprenditori anche grandi e piccoli. E però, comunque, come scriveva ieri molto opportunamente sulla voce.info, cioè comunque c'è stata anche la componente dell'ingresso nell'euro che ha determinato una forte spinta, diciamo, no? Il crollo dei tassi nominali, ma soprattutto reali, per gli italiani abituati a tassi reali più alti prima della convergenza sull'euro, e quindi ad avere un effetto frenante, che come si è, diciamo, scaricato a terra attraverso questo boom immobiliare. Questo è un punto, secondo me, storicamente sottaciuto, sottovalutato e non considerato. È un punto al quale poi l'imprevedibilità delle conseguenze inintenzionali, perché non era per questo che lo hanno fatto, la triplicazione del totale del peso del fisco sugli immobili brutalmente, per così dire, spento questo bolla. Comunque, per una volta è colpa dell'euro, hai visto? È la colpa ma è ovvio che la colpa sarebbe stata dell'euro. Lasciate che vi dica che se Sorgenia dell'ingegnere De Benedetti ha avuto un atteggiamento di attenzione dal consorzio di banche, mentre chiunque altro di noi sarebbe finito in galera se avesse fatto le stesse cose, non dipendeva dall'euro e dalla bolla immobiliare. Credito relazionale nel sistema bancario italiano ce n'è, non è che non c'è. No, ma ce n'è sempre stato e ce ne sarà sempre, ma c'è in tutto il mondo. mondo. Ci ho detto, Renato, io non andrei da una banca che viola il contratto fondamentale di riservatezza fra me e il mio istituto di credito, mettendomi all'agonia perché qualche ha ragione. Dopodiché c'è qualcuno che legge una lista di 100 nomi e sa perché non hanno restituito il credito, magari hanno avuto problemi di mercato internazionale, cambiata la legislazione, della tecnologia. E invece quelli che hanno ottenuto credito relazionale probabilmente su quella lista non ci sono già più, perché hanno intelligentemente distribuito i rischi. Questo è il problema. Va bene, può essere, però insomma, se me lo dice un presidente dell'ABI, io purtroppo, siccome sono in Italia, penso solo che voglia mascherare la responsabilità delle banche e collusione con i regolatori. Scusa, però quando si dice mendaccio bancario, ma dai, cioè io veramente, ma tra l'ingegnere De Benedetti che truffa pistola alla mano le banche di quei clienti, ma insomma di cosa stiamo parlando? Però intanto il presidente dell'ABI lo ha detto. Comunque la CIC non è nelle sofferenze conclamate, ma è nei grandi crediti ristrutturati. Lì si trova tutto il contrario di tutto. Poi, conoscendo questo paese, la gente con 3G viene fuori di tutto. Tu perché hai un fido? Che cosa hai fatto tu per avere quel fido? Guarda, lasciamo stare. Allora, vi invito a leggere su questo tema. C'è un post pubblicato in settimana su un certo sito pubblicato da Mario Seminario, che ha un esito, un ritmo, un tono da racconto letterario. Sembra Bulgakov. Finisce in una maniera che mi ha fatto letteralmente rotolare sotto il tavolo. Leggetelo, perché come sempre, come Bulgakov parlava in quel modo, era l'unico modo per parlare di quello che succedeva nella Russia sovietica. Anche questo è un modo per parlare, l'unico modo per parlare di cosa succede nel mondo bancario. Poi il mio libro preferito è Il Maestro e Margherita, quindi direi che hai centrato il punto. Fate prestito. Esatto, fate prestito. Eccoli là, fermi. Ci tolgono il badge, fermi. Tra un minuto. Della belva. Eccoci qua, tornati in studio, e come promesso, cari ascoltatori, iniziamo a porci un problema, insomma, che è lo stesso problema sollevato nella nota di BRS da cui siamo partiti nella trasmissione per abbassare il rating sovrano del nostro paese. C'è anche un giudizio sul fatto che le riforme intraprese dal governo Renzi, dice la nota, insomma, sono o in arretramento o messe a rischio dal fatto che in una stagione politica, quella attuale, giudizio che viene espresso è che il governo Gentiloni è un governo comunque di breve durata, ci saranno elezioni anticipate, c'è scritto nella nota, di incerta efficacia. Cioè, il dubbio che viene espresso è, su alcune questioni di fondo, non è affatto detto che non si torni indietro, che il governo sia costretto, per così dire, a farlo. Qualche segno si è visto, come sulla scuola. Il lavoro, pensiamo, no? Ecco. Il referendum. Allora, abbiamo con noi per discuterne, cioè per capire dal suo punto di vista quanto sia fondato il giudizio che si torna indietro, quanto sia fondato il giudizio che c'è una pausa di interruzione e si ricomincia. Però, siccome l'ha vista da vicino questo cantiere delle riforme, perché il professor Luigi Maratin, che è con noi, che insegna sì macroeconomia all'Università di Bologna, ma insomma è ex consigliere economico di Renzi e è ancora consigliere economico della Presidenza del Consiglio, quindi è al centro di questo processo politico che è andato avanti in questi anni. E allora, buongiorno e grazie di essere con noi a Maratin, e faccio immediatamente buongiorno. La domanda: che impressione le fanno giudizi come quelli, lo prendo come esempio, ma insomma il pane quotidiano che si trova su tutte le analisi politiche, che il core delle riforme di Renzi, scuola, lavoro, eccetera, eccetera, o sono indebolite, o sono interrotte, o si torna addirittura indietro? Ma alcuni noi lo dicevano durante la campagna referendaria e venivano accusati di dipingere scenari a tinte fosche. In realtà, leggendo la nota dell'agenzia, è abbastanza chiaro, cioè è evidente che la sconfitta del referendum del 4 dicembre ha determinato l'interruzione di un percorso che andava avanti da circa due anni e mezzo. Questo è evidente ed è espresso chiaramente nella nota. La preoccupazione della nota è un giudizio forward looking, non backward looking. Se non è che ha guardato indietro, cioè avete sbagliato le riforme, ha detto: beh, adesso che il referendum costituzionale è stato perso, che ne sarà di quelle riforme ancora da implementare? Ed era il timore che qualcuno di noi aveva sommessamente detto. Poi sa, in democrazia, vuol dire, è la democrazia, i voti si contano. Quando i voti si contano, il popolo ha scelto di bocciare quella riforma che era la madre un po' di tutte le riforme, anche di competitività economica, eccetera. Forse dietro quel voto c'era anche un giudizio sulle altre tipi di riforme, ma l'unico modo per saperlo è ridare la parola al popolo con delle nuove elezioni politiche. Quindi è chiaro che ha segnato una battuta d'arresto. detto ciò, il governo Gentiloni ha una breve durata per costituzione, nel senso che la legislatura scade comunque fra pochi mesi, poi se le condizioni politiche saranno tali da anticipare il voto di qualche mese ovviamente lo vedremo, ma non è che il governo Gentiloni nasce azzoppato per qualche motivo, è che strutturalmente l'orizzonte della legislatura oramai è molto molto breve. Detto ciò, non è un governo che è lì per far finta di governare. L'attuazione delle riforme, a cominciare dai provvedimenti contenuti in legge di bilancio, non ce lo scordiamo, ma anche le deleghe, tra pochi minuti va in Consiglio dei Ministri le ultime deleghe sulla scuola, c'è ancora da completare la riforma del mercato del lavoro, c'è la questione dell'APE, eccetera. Il governo Gentiloni è pienamente legittimato e capace per completare e ridare fiato a quel percorso di riforme. Però Luigi, nel merito, secondo te, di BRS, che cosa ha colto di grave o comunque di messo a rischio? Nel merito è lavoro, è non so, welfare, è competitività. Secondo te quali sono i punti che più hanno fatto scattare questo giudizio negativo? Ma se posso dire, non ha niente di economico, nel senso che oggettivamente, guardando l'Italia, noi non sappiamo quando voteremo, ma questo, ripeto, forse è il più piccolo dei problemi, non sappiamo con quale legge elettorale voteremo e molto probabilmente, visto che il risultato referendario è stato interpretato in questo modo e l'orientamento della Corte, beh, lo vedremo tra 10 giorni, molto probabilmente sarà una legge elettorale che torna indietro rispetto alla stagione aperta da Renzi, che diceva: guardate, dobbiamo disegnare un sistema istituzionale in cui si scontrano due piattaforme politiche competitive, gli elettori decidono e costui o costei governa 5 anni senza dover essere ricattato dai partiti con lo 0, con molta probabilità, anche se ovviamente spero di no, torneremo indietro rispetto a questa impostazione. È chiaro, quindi, ce lo dicono anche decenni di letteratura economica, che è un sistema istituzionale in cui non si sa chi vince e in cui anche il collegamento fra livelli di governo, insomma, il funzionamento della democrazia non è quello che sarebbe uscito dal 4 dicembre, ma è quello che abbiamo visto finora. È chiaro che in questo contesto portare avanti con maggiore incisività le riforme economiche non sarà facilissimo. Poi vedremo che legge elettorale il Parlamento deciderà di approvare, io non mi sono ancora rassegnato, ecco che occorre tornare a una legge in cui poi dopo il governo lo si fa in una stanza fra 4-5 persone. Speriamo davvero, almeno io personalmente aggiungo la mia personale valutazione, se ci siamo dimenticati la lezione di decenni di proporzionale, non lo so, ci siamo dimenticati, siamo un paese in memoria, però questa è la mia opinione personale, perché vedo che tutti sono disposti anzi a scommettere sulle mani libere, perché non riescono a capire prima come si fa a dire in pubblico con chi allearsi, però questa è la mia opinione personalissima. Quello che mi colpisce è questo: alcuni sostengono, Martino, no, il problema è anche un altro, è che le riforme fatte male, cioè fatte caricandole di salvifiche palingenetiche conseguenze alla presentazione, e poi però nei dettagli tecnici, proprio su materie su cui bisogna sapere che si va incontro a enormi reazioni di interessi costituiti, fatte con superficialità, finiscono per essere dei boomerang, cioè tornano indietro sulla testa e poi per anni e anni non si tocca più niente, perché vince il no e la resistenza. Non è che vince chi ha ragione, però vince il no e la resistenza, che è molto forte. Faccio un esempio: per esempio i decreti Madia sul sentenza Corte Costituzionale per il mancato rispetto pieno dell'accordo di intesa nella conferenza Stato Regioni, alla fine esitano in cose che per me, che seguo sta faccenda del pubblico impiego da anni, perché io voglio metriche ex ante ed ex post valutabili e precise della pubblica amministrazione nella parte merito dei contratti, voglio una svolta su quello, perché credo che servano ai tanti che lavorano molto e ci credono nella PA, e però sono tra virgolette purtroppo demotivati dal fatto che a vincere siano atteggiamenti conniventi con di altro tipo, e lo si fa con metriche come lo si fa con un nuovo contratto dei meccanici firmati da tutti i sindacati. Mica io sto immaginando il dottor Stranamore. La conseguenza è che invece, per esempio, il decreto delegato sul testo unico dell'impiego pubblico, che era atteso entro febbraio, il governo non lo farà. E non lo farà, e me ne dispiace tantissimo, perché significa che nei contratti pubblici nuovi dopo 7 anni non si fa il passo che era uno dei fondamenti della riforma Madia. Ecco, faccio questo esempio per sapere: c'è stata anche una componente di, come devo dire, non voglio dire superficialità, che sembra, però insomma un passo bersaglieresco che ha fatto perdere di vista alcuni particolari tecnici in assenza dei quali la resistenza vince? Allora, sulla riforma Madia so che è passato questo messaggio, ma occorre capire bene che cosa è successo. Noi, quando abbiamo fatto tutti quei decreti legislativi, che poi prendiamo, ci sono solo tre quelli che sono sotto la mannaia, in realtà quello pubblico impiego non essendo ancora stato fatto, in teoria tempo per farlo ce l'è, poi ovviamente sarà la scelta politica del governo, ma quelli sospesi sono quello sui direttori sanitari, se non ricordo male, sulle partecipate e sui cosiddetti furbetti. Degli altri 14, fondamentali per altri versi, sono tutti in piedi. Però lì qual è stato il punto? Quando siamo fatti questi decreti, la giurisprudenza costituzionale è basta il parere della conferenza unificata. E quindi i decreti sono stati costruiti sulla base di quella giurisprudenza costituzionale. A un certo punto la Corte Costituzionale ha legittimamente, per carità, però ecco, mi si consenta di esprimere qualche... ha cambiato idea, ha fatto una cosiddetta sentenza evolutiva e ha detto no, mi sono sbagliato, ho cambiato idea, serve l'intesa invece che il parere. La ricerca dell'intesa, perché il principio è quello della piena e leale collaborazione, che a dire la verità, Martin, è il principio fondamentale di tutte le sentenze sull'articolo, su questa parte dell'articolo 117. Sì, però su tutti... significa ricerca d'intesa, non significa voto totale delle regioni. È una distinzione formale ma molto poco sostanziale, perché su tutte quelle questioni... No, ma adesso senza perderci in questi dettagli, il problema è che siccome uno dei tre criteri è quello sui furbetti, e quindi non, tecnicamente a questo punto non ce la si fa a metterlo dentro oppure no, per non metterlo no, il messaggero abbiamo scritto questa settimana, infatti viene dal governo la roba perché il governo non ci ha smentito, mancherà quello, non ci sarà automaticamente nei contratti. Ma io non voglio insistere, non lo dico polemicamente, lo dico per capire dal di dentro se alcune volte è partito un processo del tipo accidenti, potevamo forse andarci più piano, non lo so, ecco, perché altrimenti quale, lo dico Maratin, per questo io intravedo un rischio che quando ritorna, mi dà la risposta dopo il minuto di interruzione, che quando il segretario del PD ritorna in campo, perché avverrà, se si ricomincia solo sulla base del tono io e noi tutto bene e voi tutto male, non lo so, il rischio è di riproporre la logica che poi ci ha portato dritti a sbattere al 4 di dicembre. Magari mi sbaglio come previsione politica, ma io penso che gli avversari non si augurano niente di diverso da questo, perché se gli manca qualcosa è l'antagonista Renzi con cui prendersi a pugni. Può essere che mi sbagli io, la risposta è di Martin tra dopo l'interruzione. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, riprendiamo con Luigi Maratin, ex consigliere economico di Renzi, insomma consigliere economico alla presidenza del Consiglio, e la domanda era, ma se non si cambia un po' il tono, quando Renzi torna in campo su ste riforme, non si rischia di riprendere la stessa atmosfera con gli stessi esiti, magari, e magari anche accondiscendendo alle speranze degli antagonisti che vogliono un Renzi contro cui esercitarsi nel pugilato, perché le logiche poi sono di interesse reciproco a volte quando si esagera in politica, questo ragionamento è sbagliato secondo lei, mi scusi Marattino? No, guardi, la mia precisazione di prima era dovuta al fatto che non credo che fallimento di alcuni pezzi di riforma sia stato dovuto a una superficialità o a un tono. In quell'esempio specifico è stato dovuto al fatto che quando c'era l'interpretazione della Corte, chiarissimo. Però è chiaro che non fugo dalla domanda. Allora, io credo e spero che in una fase successiva, se dovesse riprendersi quell'esperienza, come spero, ci sia anche una sorta di autocritica, no? Non credo che l'autocritica si deve essere sempre portata al fatto che siamo stati superficiali. Era un esempio, si è messo troppa carne al fuoco contemporaneamente, non si è adeguata la struttura tecnica a una carne al fuoco così ampia, perché se metti tanta carne al fuoco devi avere una struttura tecnica in ogni ministero che marci nella stessa direzione con convinzione. È un problema di storytelling, quindi come diceva lei, il fatto di aver presentato tutto come la panacea di tutto, ma lì non lo so, sono domande, no, no. C'è chi nel PD però... dice c'è anche un taglio culturale da limare e rimettere a posto, e non lo dicono solo oppositori, diciamo così, non lo so, io penso a una persona che conosco da tanti anni, di cui non ignoro la matrice culturale molto marxista, come Fabrizio Barca, però Fabrizio Barca da anni incalza dicendo c'è proprio una visione della società italiana, e lui non è uno di quelli spacchiamoci, dice c'è un pezzo però della nostra cultura che non si vede, ci sono tante le componenti, ecco, questa era la mia domanda. Guarda, io personalmente credo che il segno culturale, politico, l'approccio fosse assolutamente giusto, forse, ripeto, c'è da calibrare qualcosa e nella determinazione della struttura tecnica e forse anche in come si comunicano le riforme, però io ho una gran paura. Mm. Io ho paura che invece tutti questi discorsi sono riservati alle nostre lucubrazioni, sì, e che invece le devo confessare proprio in un momento di sfogo che l'Italia possa essere il paese in cui le riforme vanno bene finché se ne parla soltanto. Quando qualcuno si azzarda a farle, allora scatta il riflesso di conservazione. Spero che non sia così. Però, ma a volte se le confesso, è così, andiamocene. Perché... No, se è così dobbiamo rimetterci maggiormente in linea con l'elettorato. Cioè, perché l'elettore chiede conservazione? Questa è la domanda da fare, ammesso che sia così. Ripeto, ammesso io, che sia così. L'elettore la chiede? La chiede perché ha paura. Allora, le analisi che da anni ormai si dicono che la globalizzazione ha fatto la paura, eccetera. Io credo che il punto sia la domanda che sta salendo da parte dei cittadini non è di aiutami nella transizione verso il mondo nuovo, ma è toglimi dalle scatole del mondo nuovo. Allora forse la politica deve saper comunicare dicendo guardate, il mondo è nuovo da 25 anni almeno, io ti aiuto nella dinamica di transizione, ma non ti aiuto per farti proteggere da questo mondo nuovo. È qui che da Trump alla Brexit e forse anche al 4 dicembre la politica non ha capito qualcosa, perché o la risposta è stata tranquillo, è tutta una nottata che deve passare e torniamo presto al mondo pre-globalizzazione, con i campioni nazionali, torniamo presto, questo è soltanto il fregolo di qualche intellettuale, oppure la politica si è incasinata in messaggi strani. Il messaggio deve essere guarda che il mondo deve cambiare, è cambiato, ti accompagno io nella transizione, ma guarda che l'accompagnamento non è una protezione dalla transizione, è un aiutarti ad affrontare quel mondo. Così possiamo leggere il mercato del lavoro, così possiamo leggere il mercato delle banche, persino la finanza locale. Dopo 38 anni abbiamo cambiato il modo in cui lo Stato dà i soldi ai comuni, e tanti comuni pensano che sia ancora il vizio una notte che deve passare. Sì, tanti comuni, invece, certamente. No, io ti accompagno nella transizione perché non posso essere così ambizioso e presuntuoso da cambiare un paese come l'Italia in 6 mesi, un anno. Quindi ti accompagno in questa transizione, ma è un accompagnamento che ti deve far cambiare, non ti deve dire tranquillo, adesso appena ti stanca non ti dici che il mondo è cambiato, torniamo al mondo di prima. Però Luigi, dobbiamo dedurre che questo è lo stile e il programma politico-economico del governo Gentiloni. Facci capire, passeremo questo anno e mezzo prima delle elezioni a rassicurare gli italiani, a pettinare le bambole, questo che devo sentire. Non ha detto pettinare le bambole. No, non l'ha detto, ma diciamo l'ho sentito un po' bersaniano, se posso dire. Sei tu o è tuo fratello? Lo stai provocando per fargli alzare i toni. No, chiedo, perché se no non mi ricordo bene con chi sto parlando. Luigi, cosa volete fare al governo in questo prossimo anno? Vedi, ho un ruolo tecnico, lo chiedi al Presidente. Ecco, sempre così, giochi quello che ti conviene. Spara una roba intelligente. Allora, il governo ovviamente ha l'orizzonte, come dice il Presidente, finché ha la maggioranza, e quindi comunque si misura in mesi, in anni. È difficile pensare che con mesi di orizzonte si faccia. Ma? Io dico, già solo portare a compimento i tanti cantieri ancora aperti con lo stesso spirito riformatore e sarebbe un gran successo, io mi auguro e sono sicuro che sarà così. Poi vedremo cosa si può mettere in cantiere di nuovo, perché l'orizzonte, ripeto, nessuno sa se sono 3, 4 o 6 mesi, però sul punto di prima, attenzione, ovviamente no, sul punto di prima, no, ma sul punto di prima io condivido la cosa, cioè è inutile non vedere la profondità, la vastità, la trasversalità e la radicalità, cioè è un processo orizzontale e verticale delle forze, degli interessi, degli istinti avversi ai cambiamenti. Lo vediamo nel mondo del credito, quanto è forte la collusione tra imprese e manager e asset di controllo bancari, e questo avviene. Le politiche attive del lavoro, cari signori, mancano perché il sindacato per primo non ci ha mai creduto, e mi dispiace che sia così. Nel mio mondo ideale dovrebbero essere i protagonisti, però invece sapete che è il contrario e non è così. Allora io dico, siccome siamo in conclusione, nel ringraziare Luigi Marattin, se però dovessimo fare un bilancio per cui alla fine la destra è diventata solo in Italia nazionalista, antimercato, anti-euro, eccetera eccetera, il rischio c'è che questo sia l'esito di questi anni, e dall'altra parte che la sinistra riformista le ha prese in tasca e torna indietro, beh, abbiamo buttato via questi anni. Spero di no. Grazie a Luigi Marattin, dopo GR. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Della belva. 11 8 primi 45 secondi ed eccoci qua, più truanti che mai, perché io ho resistito, cari amici, ma dovete sapere che io bisogna che io resista quando sono tutti in studio, i miei compari qua, questa associazione delinquenti, questi si presentano con le bollicine, con le cose più inverosimili, io devo resistere perché sono qua per tentare di farmi andare in solucro e fuori controllo invece che fare il mio mestiere di onesto conduttore, mentre invece loro sono qui, guardate, Renato Cifarelli mi sta offrendo in questo momento, che cos'è quella roba, una cosa a 60 gradi, mamma mia, ma è l'anticongelante dell'auto, una grappina, dai, a livelli russi siamo, ormai ci beviamo il dopo barba. No, dai, stiamo scherzando, direi che leggiamo un po' di sms, sentiamo anche qualche ascoltatore. Allora, comunicazione di servizio, è arrivato questo sms che dice: ciao Luca, devi darmi le chiavi del box, non so dove mettere la macchina. Sarà un diesel o Fiat, faccia qualcosa, anche perché poi è arrivato un altro che scrive: Parenzo sei un verme. Ma no, vabbè, signore, leggi con il pettinetto. Vabbè, allora leggi qualcosa, Carlo Alberto. Non so, l'ape è un'angheria, ci fanno prendere un prestito per andare in pensione, praticamente ci fregano la liquidazione. Vabbè, sintesi direi economica perfetta. Professor Maffè, la mia felicità per la Brexit è per la libera scelta di un popolo che si autodetermina e sceglie. L'ascoltatore. No, e sceglie di non pagare più miliardi agli inutili eurocrati. Me ne fotto se dal punto di vista economico all'Italia non conviene, dovremmo farlo tutti. Grazie Francesco da Firenze per questo bel appello al farci del mare da soli. Del mare? Del mare, scusami. Attenzione, il PIL del quarto trimestre aumenterà molto perché si sta facendo manutenzioni alle centrali nucleari europee e l'ILVA è ripartita. Grazie Sergio, l'IVA dove è ripartita? Ma da dove va l'IVA? Dove anche va? L'IVA è ripartita se non stiamo attenti. Vabbè. Va bene. No, è la qualità dovrebbe... Carissimi, l'agenzia di rating di BRS non conta nulla, sono le altre tre che fanno testo. Sì, però... Adesso arriva Fitch. Questo è il caso di spiegarlo. Caro Luciano, il problema è che nella stanziabilità e negli scarti di garanzia per i titoli da stanziare in Banca Centrale Europea, si utilizza il rating più alto, quindi tra se Fitch, tra quattro, che sono le quattro maggiori, quindi Standard & Poor's, Moody's, Fitch e i canadesi di DBRS, che era la vecchia Dun & Bradstreet, quindi se sino ad ora DBRS, che pure ha una bassissima quota di mercato, se vogliamo dirla così, però serviva all'Italia perché aveva il rating più alto sull'Italia e questo ci teneva bassi gli scarti di garanzia, quindi... Sono d'accordo con lei che probabilmente non conta nulla, però visto che era deviante rispetto alle altre tre, è era l'ultima ancora di valutazione. Però, spiegazione tecnica dovuta. Esatto. Allora, sentiamo cosa pensano i nostri ascoltatori. Giuseppe da Milano. Giuseppe, sulle riforme, Giuseppe? Buongiorno a lei, dottor Giannini, e buongiorno a lei e a tutti i suoi ospiti. Vede, io parlo delle riforme annunciate dai vari governi, tutti indistintamente, che si dice riforme di qui, riforme. Quando andiamo poi sul concreto andiamo a vedere che le riforme sono una bufala, tutte, una dietro l'altra, perché quando andiamo a vedere queste riforme cosa dicono e si va a scontrare con la burocrazia, purtroppo le riforme non si possono fare. Se vuole entro nel merito della riforma che interessa a me o interessa qual è quella che interessa a lei? lo sblocca Italia, la riforma dello sblocca Italia. Era stata fatta nel 2014 la riforma dello sblocca Italia. Francamente, quando noi siamo andati a vedere che cosa diceva la sblocca Italia, erano quelle sulla modifica di destinazione d'uso degli immobili. Sì, sì. Ecco, noi abbiamo dei capannoni, sono un imprenditore, abbiamo dei capannoni dove ormai non prendiamo l'affitto. Non ed è stata disboscata la selva degli adempimenti e delle cose amministrative da sblocca Italia oppure no? Guardi, proprio niente, ecco. Perché le spiego in concreto che cosa poi mi dirà se è una cosa che... Dica. Noi siamo andati, abbiamo un immobile di un bel interesse, in una posizione bellissima, dove questo immobile è produttivo. Il produttivo a Sesto San Giovanni, le immagini una cittadina come Sesto San Giovanni, alle porte di Sesto San Giovanni, nessuno lo vuole, perché se vanno a produrre in comuni, certo, limitrofi, molto limitrofi, nella periferia di Milano. Ma quindi a Sesto San Giovanni, dove tutto ha un costo enorme, ci è capitato di dover vendere un immobile che è produttivo. L'acquirente lo vuole commerciale. Io vado a vedere quale potevano essere le potenziali possibilità di farlo diventare commerciale, e nello sblocca Italia c'è un articolo ben preciso, l'articolo 23, che sembrava servire a questo scopo, invece? Che aveva questo scopo. Quando ci siamo andati a scontrare qua, andando in comune a dire che c'era questa possibilità, non riusciamo a parlare con l'assessore. Risposta? La risposta è che nessuno ci riceve, e che adesso ci sono sotto elezione, quindi se ne parla dopo l'elezione al comune di te. Vedi, ciclo politico. No, ma questa la fine dell'intervento del Piero è un utilissimo apporto. Esatto. Perché il ciclo elettorale non ha solo un impatto diretto sui flussi di cassa della spesa pubblica, ci sono fior di letteratura accumulata su questo ciclo elettorale, ciclo della spesa, ma anche nelle norme che sono cambiate. È un intervallo temporale, fisico, di sospensione per dire vediamo chi vince e si porta a casa il timbro al quale tu dovrai essere riconoscente. Questo è proprio un pezzo di tal. Invece sentiamo Piero da Milano come la pensa. Piero. Pronto, buongiorno. Dica. Innanzitutto grazie a tutti qua, a tutti e quattro, perché fate veramente una trasmissione che ormai seguo da anni. È veramente è una cosa molto bella da sentirvi in post la sera. Le considerazioni che volevo fare sono due. La prima è che il paese è irriformabile, perché purtroppo ci sono troppi interessi da parte dei cittadini, da parte dei politici, da parte dei sindacati, che non vogliono semplicemente cambiare un sistema, perché in questo sistema ci vivono, ci campano e ci prosperano troppo bene. Quindi nessuno di queste persone avrà interesse a riformare il sistema che gli permette di esistere, indipendentemente che siano produttivi o non produttivi. Io sono un medico, so che devo fare una diagnosi, applicare una terapia in modo che il paziente guarisca. In Italia questo processo si interrompe perché nessuno vuole prendere la medicina. Tutti sanno qual è la malattia, tutti sanno quale potrebbe essere la medicina, ma nessuno vuole prendere la medicina. Primi tra tutti i cittadini stessi, in cui in parte fanno parte di questa piramide che sostiene chi c'è in alto, fondamentalmente i politici, i sindacalisti e quella massa di persone che su questo sistema ci lucrano alla grande. Prima considerazione. Seconda, e poi me ne vado, e penso che sia sacrosanto conoscere i destinatari dei soldi delle banche che vengono fallendo nel momento in cui questi soldi vengono chiesti allo Stato. Quindi una banca non mi deve dire se l'imprenditore è stato travolto dalla crisi, ci mancherebbe altro, potrebbe toccare anche a me o qualunque altra persona. Però su banca... questo io innanzitutto voglio sapere i nomi e i cognomi. Allora, se dobbiamo veramente, i soldi pubblici, sono d'accordo, i soldi pubblici escono dalle tasche di tutti noi. Il problema è che il credito c'è qualcuno che l'ha valutato e l'ha concesso, che era lì per mestiere. Allora, ma chi di voi in ascolto ha mai avuto l'esperienza di essere andato a un'agenzia bancaria e alla domanda voglio un prestito si è trovato la vagonata che gli davano? Ma quando mai vi è capitato? Non può esservi capitato. Allora, capisce che se le banche hanno bisogno di recovery o di resolution, vuol dire che chi per anni ha deciso e valutato prima di decidere, ci sono i valutatori, ci sono i decisori, ci sono i sorveglianti, ci sono i comitati crediti. Guardi, le banche sono tenute a una pletora, in teoria, obbligate a una pletora di regole e criteri da rispettare e adempiere. Allora partiamo di tutti là, eh? Perché beh, i crediti deteriorati, virgola, che il presidente Labi ha detto per anni che si derivavano solo dalla difficoltà dei punti di PIL persi, perché le imprese italiane erano colpite dalla crisi e adesso diventano i prenditori truffaldini. Pattuelli, eri pure vice segretario del Partito Liberale! Liberale! Ma che liberale sei diventato? Lo dico perché ero tuo amico, e sono tuo amico, ti voglio bene, ma scusa, ma come puoi dire A è il contrario di A in questa maniera? Perdonatemi, mi sono fatto come sempre portare la mia passione, perché Antonio è una persona che conosco, che stimo, capisco, fai un mestiere difficile, il presidente dei banchieri italiani quando arriva allo Stato, però insomma dateci i nomi di chi li ha valutati quei crediti. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci qua con i compagni di conti della Belva in studio, oltre a Oscar. Carlo Alberto, Carnevale, Maffè, Mario Seminelli. No, io sto dimostrando in ascolto che è vero che voi siete lì, state tutti bevendo, perché infatti non siete disattenti, siete più attenti quando siete per telefono che qua in studio. Allora, quello assolutamente sì, diciamo. Siete lì che compitate sui telefonini, che cosa venite a fare? No, ma siamo multitasking. Siete multitasking. Renato, presentati, di qualcosa. Renato ci fa. No, ragazzi, andiamo su un punto. Fa dei tweet cattivi, Renato. Andiamo su un punto delicatissimo. Questa settimana è riesploso un argomento che ha grandissimo impatto non solo sui mercati finanziari, non solo perché l'automotive è un settore fondamentale della manifattura in tutto il mondo e così via, ma perché colpisce anche ovviamente l'attenzione del pubblico di massa, cosa che non avviene in altri settori della produzione. Sapete che cosa è avvenuto? L'Agenzia Federale Americana ha comunicato di avere sospetti che anche Fiat Chrysler adotti dei device, dei software che servono a manipolare le emissioni nei test, a ottimizzare le emissioni. Servono a ottimizzare, cioè servono a manipolare, servono a cambiare rispetto al ritmo medio, per così dire. Nel frattempo anche l'autorità tedesca, questi sono italiani, si sono dimenticati di dirvelo, a settembre ha formalizzato analogo sospetto, in particolare su tre precise vetture che agli controlli rafforzati in Germania avrebbero lasciato questo stesso interrogativo all'autorità tedesca, tanto che l'autorità tedesca aveva pregato la Commissione europea di farsi dire dall'Italia di preciso le cose come stanno, tema che è rimasto aperto. C'è stato due giorni fa anche al Parlamento europeo su questo preciso tema un intervento del sottosegretario ai trasporti italiano. Terzo, ieri i magistrati francesi aprono formalmente un'indagine per un gruppo produttore francese sempre su questo stesso tema. Come vedete, la gioia verso a Volkswagen, che c'era tutti truffati. Io ho fatto trasmissione fin dall'inizio spiegando, guardate che qui c'è un doppio problema. Primo, in Unione Europea, in Italia ci siamo abituati a regimi standard di prove collusive con i produttori, le facciamo all'omologazione con metodologie su vetture nuove che non rispecchiano, e lo sappiamo tutti, gli standard di emissioni su strada e nel ciclo vitale dell'auto, sapete tutti che è così. E per il resto ci giriamo dall'altra parte, sulla parte di componentistica, elettronica, software, stiamo parlando di motori turbo diesel, dove tra iniettori e centraline la parte elettronica è fondamentale, lì anche se poi le aziende che le producono non sono chissà in quante nel mondo, sono fondamentalmente due, è lì che si interviene per fare queste cose qua. Naturalmente si disse che Giannino voleva estendere i sospetti, invece a me pare un problema di fondo, innanzitutto, fine della mia introduzione, perché c'è una questione di fondo. Per le utilità, noi abbiamo un mercato diesel in Italia e in Europa superiore al 50%, il costo del raffinamento, del perfezionamento di queste tecnologie, diciamo elettronico parte emissione sugli ossidi di azoto e CO2 dei motori diesel, diventa non conveniente per le vetture utilitarie e così via, perché è un costo molto elevato, molto molto molto molto elevato. Quindi dall'altra parte, i costi invece per componenti fondamentali di trazioni diverse sono in questi anni scesi di botto. 8, cioè ci sono discese a doppia cifra, cito sempre l'esempio dei componenti delle batterie a ioni di litio. E allora la domanda diventa: ma non è che dovremmo fare una riflessione da una parte sui tipi di standard e di controlli e dall'altra su dove va il mercato dell'auto e dove conviene che vada il mercato dell'auto, non solo per il contenimento delle emissioni, ripeto, che comunque è molto migliorato negli anni, ma perché c'è una questione di convenienza economica. Aggiungo, l'Italia non l'ha smesso il suo vecchio difetto. Il ministro Delrio annunciò 1000 controlli su strada per vettura di case diverse. Testuali parole. Alla fine, a essersi occupati di questa vicenda, siamo rimasti solo in 2-3, e onore ai colleghi del Fatto che hanno continuato a farlo. Il controlli aggiuntivi sono stati affidati dal governo all'inizio dell'anno scorso all'ufficio motori del CNR, che ha fatto controlli su 14 autovetture in tutto, 7 di Fiat Chrysler e 7 di aziende europee, di cui 3 tedesche. Quelle prove non sono state fatte a caso su strada, comunque non sono state fatte su strada in ciclo vitale dell'auto, bensì su vetture nuove preparate ad hoc dai produttori, e nel caso delle 7 vetture Fiat Chrysler, solo loro, negli stabilimenti del produttore. Le prove italiane. Non ne abbiamo saputo niente di quel report, sono 58 pagine, che risulta essere concluso e consegnato a luglio. Ne abbiamo appreso l'esistenza a fine ottobre, solo grazie a un gruppo politico, il Parlamento Europeo, gruppo 5 Stelle, perché a onore dei fatti bisogna riconoscerli. E chi legge quel rapporto ha l'impressione netta che non abbiamo imparato niente da questa vicenda qua. Ripeto, non mi muove alcun istinto giustizialista, però mi muove il fatto che bisogna comprendere bene le distinzioni tra le auto che comprate, le condizioni alle quali che comprate, i costi delle loro componenti, dove va questo mercato, che io continuerò a considerare come una leva fondamentale dello sviluppo. Dette tutte queste chiacchiere, noi abbiamo un ospite per levarci un po' di curiosità su come la pensa lui e su come pensa che questa estensione del rilancio europeo avrà impatto sul settore, perché è con noi l'ingegnere Enrico De Vita. Allora, Enrico De Vita c'ha, nella seconda parte della sua vita, è diventato collaboratore di testate specializzate come automoto.it e così via, del settore appunto che riguarda i veicoli a 2 a 4 ruote, ma in realtà è un ingegnere meccanico che ha lavorato per anni e anni nell'industria dell'auto e della moto. Ha lavorato all'Innocenti, a Lambretta, a Moto Guzzi, eccetera eccetera, ed è un appassionato di questi temi oltre che un conoscitore tecnico. Grazie di essere con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei, Giannino. Cosa dice dei sospetti dell'Agenzia Federale Americana e di quelli tedeschi? Stiamo parlando di standard diversi da quelli dichiarati, che è la regola, o stiamo parlando di un sospetto concreto su software ad hoc per eludere i controlli, come nel caso Volkswagen? Allora, non è un sospetto, nel senso che io qui di fronte alla lettera che l'EPA ha indirizzato alla Fiat, alla FCA, e dice che ci sono 8 casi nelle 104.000 vetture che loro sospettano essere tutte inficiate, 8 casi di artifici nel sistema di controllo delle emissioni che possono portare contestualmente ad aumentare il numero, la quantità degli NOx inquinanti in condizioni che non sono quelle previste nelle prove di omologazione. Questo, aspetta, però stiamo parlando di una materia che io in questo momento vedo essere uguale a quella di una matassa di filo di nylon quando si va a pesca e si tira fuori una matassa di fili ingarbugliati l'uno con l'altro. Ogni affermazione può essere smentita e addirittura si può creare un danno maggiore alla matassa, nel senso di non riuscire più a smontarla. E allora torniamo indietro di qualche anno. L'accusa fondamentale che faccio all'industria europea è quella di essersi fatta realmente sopraffare dagli americani, quando gli americani nel 70 hanno deciso che per eliminare o combattere lo smog fotochimico di Los Angeles, quella ruggine rossa, ecco, si doveva togliere gli NOx, e gli NOx erano allora prodotti solo dalle automobili a benzina americane e da tutte le combustioni. Non c'erano i diesel, non ci sono neppure oggi in America i diesel. Per far sì che gli NOx non dessero luogo a smog fotochimico, occorreva eliminare i COV, composti organici volatili, alias benzina che evapora, alias benzina non bruciata, alias idrocarburi incombusti. Per far questo hanno introdotto le emissioni, hanno messo al bando i carburatori. L'Europa si è lasciata bagnare il naso da queste supposizioni tecniche americane che hanno portato Los Angeles a pulire completamente l'aria, ma ha mantenuto gli NOx come un veleno fondamentale. Se io leggo qui le norme dell'APA, dice che gli NOx sono una famiglia di gas altamente reattivi che possono provocare in atmosfera, reagendo con i composti organici volatili, ozono, smog fotochimico durante le giornate calde, e che respirare ozono può provocare asma e tosse e irritazione. Non è un cancerogeno. Diventa cancerogeno l'NOx solo se incontra benzina bruciata male, non bruciata. Ora, il diesel non brucia benzina, non produce idrocarburi incombusti, è l'unico motore che lo scarico è pulito, però oggi noi siamo succubi di questa antica decisione di cui quella è l'origine. Questa è l'origine. Oggi che successo? Naturalmente che... non interessa più ai grandi produttori americani, perché l'ha appena ricordato lei, il mercato americano, la quota di diesel, no, siamo noi che ci abbiamo spinto al 50% e loro no. Ma guarda caso, a distanza ormai di 30 anni, 40 anni da allora, i limiti americani per gli NOx sono tre volte più severi, esatto, di quelli europei attuali. Esatto. E allora come mai gli americani rendono così severo il funzionamento dei diesel, che non hanno, meno dell'1%, mentre noi in Europa, che superiamo il 50%, abbiamo dei limiti più blandi? Ecco che si scopre che c'è sotto una guerra commerciale o industriale. Questo anche lo abbiamo spiegato a novembre due anni fa, quando esplose la faccenda, perché questo è tutto quello che sta dicendo lei, è il retroterra, per così dire. Certo. Di fronte a questo però non è che l'Unione Europea ha tirato fuori questa storia, l'Unione Europea... Peggio, l'Europa ha alzato la stampa europea contro le sue fabbriche, che erano le uniche al mondo capaci di fare dei diesel efficienti. Però il problema degli standard sulle emissioni non si rimette mano a una ridefinizione. Quindi a questo punto lei cosa prevede che avvenga? Perché le spiego, in genere sembra che stiamo facendo una specie di difesa nazionalista. Non è questo, è spiegare che i criteri delle emissioni sono molte volte illogici, perché la parte della pericolosità degli ossidi azoto è totalmente sopravvalutata. Dall'altra però, negli standard mondiali di gruppi globalizzati che devono produrre vetture e con software sulla parte degli iniettori diesel che devono andare in tutto il mondo, non è che io posso fare un motore con diverse caratteristiche davvero a seconda dei mercati in cui va. E anche per quello nasce la parte software di equilibratore delle cose. E quindi di qui nascono i problemi. Ma come si risolvono senza mettere mano agli standard? Non si risolvono per gli NOx, nel senso che gli NOx misurati in un motore da 1500, un diesel europeo medio, o gli NOx misurati in un motore da 3000, come il caso di Fiat oggi, valgono il doppio. Più è elevata la cilindrata e maggiore è il respiro di azoto, di aria, che fa il motore, quindi la produzione di NOx, che è azoto caldo, è doppia. Combatterlo con i limiti americani che sono al chilometro e non alla cilindrata o alla potenza è impossibile, è quasi impossibile. È impossibile, i costi sono saliti alle stelle, esatto, e i costruttori devono fare salti mortali. Le vetture americane incriminate, europee, italiane, sono vetture prodotte nel 14 e 15, quando si facevano salti mortali per riuscire a superare la prova al banco. Ovviamente questa prova al banco era artificiale. Totalmente era artificiale. Allora, adesso se andiamo avanti oltre su questo argomento ci perdiamo tutti per strada. La domanda secca che le faccio finale è: lei crede, qual è la posizione tecnicamente che lei assume? Quella di dire Marchionne ha ragione? Perché dal punto di vista formale io temo che abbia ragione l'autorità americana. Allora, Marchionne avrà molte difficoltà a dimostrare esatto, quello che dice la lettera che gli ha inviato EPA, ovvero che 8 artifici messi nel software del programma per riaumentare gli NOx sono ammessi soltanto se proteggono il motore, il veicolo contro danni o incidenti, se non sono richiesti per favorire la fase di messa in moto, 4, se si devono applicare a vetture in caso di emergenza. In tutto il resto dice che dovrà dimostrare lui che le condizioni in cui spegne praticamente o diminuisce l'efficacia dei dispositivi anti-NOx sono state messe per evitare danni al motore. Al motore, altrimenti paga. Altrimenti paga. Sarà molto difficile. Difficile perché però perché quello che io voglio concludere semplicemente dicendo la spiegazione tecnica, io lo sapevo, l'ho chiamata apposta per questo, cari ascoltatori, è per dire che dietro c'è un enorme problema, anzi ce ne sono tre di ordine diverso. Primo, tra produttori mondiali in mercati globalizzati non si possono avere standard le cui ragioni storiche e evolutive sono così diverse tra europei e americani, e quindi c'è un grande problema di regolatori per le agenzie di protezione ambientale. E secondo, c'è un problema su come si fanno i test, questo c'era prima e c'è ancora adesso. Terzo, c'è una questione che bisogna toccare un'altra volta che riguarda l'esame dei costi comparati delle evoluzioni tecnologiche che sono necessarie da inglobare nelle vetture per tutte queste robe qua. Oltre una certa soglia non ha senso insistere, perché ci sono alternative che costano meno, ma richiameremo l'ingegner De Vita su questo. Intanto lo ringrazio per le parole che ci ha detto oggi, ci sentiamo dopo un minuto. Della belva. Sappiamo che le cose vanno male, più che male. È la follia. È come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo. E diciamo soltanto almeno. Carlo Alberto, adesso noi dobbiamo parlare con. Abbiamo fatto la volta scorsa con la musichetta di Fellini. Carlo Alberto, ma se sei in diretta radio. Eccola, vedi? Niente, Carlo Alberto è lì che sta sta vedendo. Ma cari ascoltatori, il professor Carlo Alberto è sorpreso a correggere le tesine dei suoi studenti in orario di lavoro in studio. Guarda, è una roba. No, secondo me sta scrivendo un business plan. Allora, per ingannare il tempo. Grazie. No, era una cosa per movimentare lo stacchetto, che era quello felliniano. Perché, come sapete, noi utilizziamo questo stacchetto col nostro amico Udo Gumpel, che oramai ci accompagna in maniera fissa. Io ne sono molto grato con tutti i compagni. Conti la belva, commentiamo ogni sabato una dichiarazione, una polemica, un argomento che fissiamo sulla lavagna come esempio, per così dire, di comunicazione da cambiare per chi la fa, o di reazioni a un atto di comunicazione sbagliate per chi reagisce in quel modo. E questa settimana, cari compari, andate anche a vedere, c'è un post del nostro amico Fastidio Seminero dedicato a questa settimana. Là, il tema che poniamo a Udo Gumpel, intanto grazie di essere con noi, come stai Udo? Bene, benissimo, a Roma c'è il sole, però tra poco nevica, hanno detto almeno che domani ci sarà. Perfetto, quindi ti senti da originario di Amburgo un po' più a casa tua. Ma detto questo, il tema è la crescita del 2016 della Germania più 1,9% e naturalmente i rituali commenti italiani è la conferma, tutto ciò che i tedeschi spremono a proprio vantaggio dall'euro, perché il loro gigantesco avanzo commerciale che di anno in anno migliora è l'espressione della schiavitù che i crucchi con l'elmo chiodato impongono a noi schiavi dementi che ci siamo fatti raggirare dall'euro al loro servizio. Loro aumentano la crescita con l'export, noi gemiamo con le regole del cazzo imposte dai crucchi. La sintesi più o meno è stata questa, non con questi toni, ma è sempre la stessa. Però Udo, ci spieghi invece com'è che gli italiani non vedono che da trimestre a trimestre la crescita tedesca, che c'è ed è forte, deriva da altro, e ci spieghi da cosa, e non dalla travolgente crescita dell'export, che a quel punto dovrebbe essere tutto intra-UE per giustificare queste reazioni italiane. Ma voi perché cazzo vi ostinate a crescere così e a farci del male? State fermi, state fermi! Crescere. Perché cazzo non volete crescere un po' di meno? Oh! Allora, hai detto una cosa, tra tante cose è giusto, le hai detto una cosa stragiusta, e quella cosa stragiusta è che il surplus commerciale della Germania, dell'industria tedesca, e soprattutto verso i paesi che non fanno parte della zona dell'euro, con l'eccezione della Francia. Dunque, rispetto all'Italia, mi pare che si aggiri intorno a 5-6 miliardi all'anno il surplus. Dunque, l'Italia dovrebbe esportare per 4-5 miliardi in più per avere il pareggio rispetto alla Germania. Questo peraltro è una tendenza di arrivare ai paesi, coi paesi dell'euro in quasi parità, che con tutti i paesi, va di bene, con tutti i paesi dell'euro la Germania è quasi in parità, perché l'unico paese con il quale ha un forte surplus di bilancia commerciale è la Francia, e ha un grandissimo negativo bilancio con la Olanda, di cui naturalmente in Italia non se ne ha mai notato nessuno, perché guardano soltanto il proprio ombelico. Allora la questione è che se la Germania esporta, verso chi esporta? Esporta verso altri paesi europei che non fanno parte della zona dell'euro, ma soprattutto esporta verso paesi che sono extraeuropei. Insomma, lì extraeuropei sono i grandi clienti della Germania, e lì l'Italia ci guadagna come Confindustria. Sa, circa 300.000 posti di lavoro in Italia sono dei fornitori dell'industria tedesca che esporta verso paesi terzi. Dunque, se la Germania esporta meno, si perdono posti di lavoro in Italia. Questo si chiama divisione dei compiti di lavoro in una grande industria europea, in pratica. Però le persone che fanno questa filippica anticrucchesca, cucchiana, come la vogliamo chiamare, non sanno proprio niente, perché poi accusano in seconda la Germania di approfittare dell'euro che si avvicina alla parità col dollaro, così avvantaggia la perfida industria crucca. Ma io finora ho capito che anche l'Italia ha lo stesso euro, oppure c'è un euro del sud che vale di più dell'euro del nord. Dunque il vantaggio è di tutte le industrie europee o solo di quella germanica? Oppure l'industria italiana in parte riesce ad avvantaggiarsene, perché fa anche l'Italia dei bei surplus, oppure è solo quella crucchesca che se ne avvantaggia? Cioè, voglio dire, tutta questa logica ha soltanto una ragione nella, secondo me, radicata invidia di persone che non vogliono guardare i problemi di casa proprio, per vedere sempre nel primo della classe il colpevole del proprio voto 4. Cioè, questo non è il problema. Magari ti metti a studiare come fanno gli altri meglio, dove sono più bravi. Forse, guardate bene, una delle cose dove l'Italia potrebbe imparare, investire in giovani, investire in ricerca, in sviluppo. Voi sapete che la cifra che le università italiane, tutte quante messe insieme, hanno a disposizione per dei progetti di ricercatori che chiedono soldi al di fuori di progetti già stanziati, è di meno di 100 milioni all'anno per tutte le per tutti i progetti di ricerca universitaria in Italia, mentre in Germania la stessa cifra ha qualche cosa in più, circa 35 volte maggiore l'investimento, circa 3,5 di miliardi. E la Germania dice che è troppo poco, dovremmo investire 20 miliardi. In Italia se ne discute di togliere questi fondi. È chiaro che giovani ricercatori che vincono i migliori premi e vanno all'estero a realizzare i loro progetti. È chiaro che se una ministra della ricerca, non sto parlando dell'attuale, perché non voglio entrare in questa polemica, c'è uno che ha la media e se ha soltanto l'esame di media non possa fare anche il bravo politico. Sono infatti dell'idea che è possibile, no? Certamente un professore, voglio dire, certamente una persona che ha una laurea di ricerca, un dottorato di ricerca, sarebbe più adatto a fare anche il ministro per la ricerca scientifica. Di questo magari uno può anche essere di questo avviso. Però il problema è l'investimento, dove si mettono i soldi. E l'Italia purtroppo negli ultimi 15 anni ha usato anche l'euro, il vantaggio dei primi anni del tasso basso dell'euro, ha usato il vantaggio adesso del quantitative easing, ovvero i soldi che Draghi, Mario Draghi, questo cruccone, ha messo a disposizione e della industria germanica. L'Italia non ha usato questi grandi fondi, il risparmio nei tassi di interessi che l'avrebbero avuto e avrebbe potuto avere. L'ha usato bene per la spesa corrente. Usato per assumere gente che tanto fa. Non fare il comizio che volevamo parlare di deficit. Ferma un secondo. No, il tempo è scaduto, ragazzi. Però fammi un numero molto semplice. Dati dell'export del tedesco negli ultimi 8 anni. Dal 2007 al 2015 l'export tedesco, scusate, il saldo tedesco, ecco, sull'euro aurea è sceso da 120 miliardi a 75. Sì, sì. Nel contesto tempo quello extra euro è salito da 70 a 170. Quindi la Germania ha aperto il mondo alle merci europee e dietro a quel vagone ci sono molte imprese italiane agganciate alle cosiddette global value chain. Questo è giusto per dare i numeri a sostegno alla tesi di Udo. Carlo Alberto, però non sono solo i giornalisti a scrivere, ci sono fior di accademici italiani, fior di economisti italiani che scusate, così. Allora, velocemente, un SMS. Germania ha anche materie prime, mi pare. Sì. Giustamente la Germania galleggia sul petrolio. Petrolio. Giustamente. No, ma gli è stato imbottito la testa ai nostri ascoltatori. Giannino, dica al suo amico che la Germania ha un territorio 20 volte l'Italia. 20 volte l'Italia, per cui gli investimenti per i nostri giovani, certo che sono 35 volte inferiori. Non sottovalutiamo il fatto. Ma fatevi vedere da uno bravo. La reazione oramai di nazionalismo autarchico è antitedesco, è pettinata da destra e sinistra da anni nel nostro paese, è diventato un problema del tutto analogo a quello che in altri paesi ha lo sciovinismo, l'antimmigrazione eccetera eccetera, e non pensiamo che questa questione non provocherà guai seri in politica, perché è così oramai, è così. Agli italiani gli hanno spiegato che la ragione di tutto è una perfida riedizione del Quarto Reich. Questa è una cosa terrificante, ma è così. Ricordo a voi tutti in ascolto che da numerosi trimestri, 5 per la precisione, quindi entriamo nel sesto, la crescita congiunturale tedesca è la componente attiva, sapete qual è? Quella dei mercati internazionali? No, la componente attiva è tutta quella del mercato domestico, cioè grazie ad aumenti salariali, più redditi disponibili per più consumi e più investimenti. Queste sono le componenti attive della crescita tedesca, che fa più 1,9%. Esattamente quello, cari ascoltatori, che i predicatori che sentite incessantemente additando le colpe della Germania chiedono alla Germania di fare. Gli hanno chiesto: dovete alzare i salari, consumare di più, quindi importare di più anche le cose nostre, investire di più. La Germania lo fa e nessuno gli è dato. È un'Italia dei mentitori. Perché? Perché vi stanno convincendo che la Germania, come ci scrivete voi, anche i nostri ascoltatori la pensano così, perché gli serve ad assolversi la coscienza sul fatto che l'Italia è in ginocchio per colpe loro, per colpe cioè nostre, e loro vi stanno ammannendo da anni che anche le banche italiane sarebbero nei guai, perché a quelle tedesche, a quelle spagnole gli stiamo facendo con delle truffe internazionali europee fare delle cose che invece alle nostre no. Ma ragazzi, ma vogliamo metterci un limite a queste prove degli effetti dell'acido lisergico nelle assunzioni oltre le dosi minime nei protocolli clinici, oppure vogliamo farci ridere dietro da tutto il mondo? Sì, lo dico io, senza laurea e me ne fotto, perché sono sicuro di quello che dico, e se anche la maggioranza degli economisti in cattedra foraggiati dalle banche italiane scrivono il contrario, li disprezzerò dal primo all'ultimo fino alla fine, pensando che voglio morire con l'idea di chi alzava la voce, però voglio sfidarli a dirmi che avevo torto. Grazie a Udo Gumpel, ci sentiamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci qua, cari compari, per il nostro appuntamento finale con Renato Cifarelli. Non si può fare? Pago pegno per il tempo che avevo consumato prima. No, paghi pegno perché, come sempre, no, poi mi parte l'embolo. Dammi un calcio, vedi, tu devi venire qua perché devi dare un calcio. No, ma va. Non mi permetterei mai. E invece devi. Allora, leggevo prima sulla Verità, che è una cosa che ho scoperto qua, perché qua quando si arriva c'è la mazzetta dei quotidiani, cosa che io, non facendo il giornalista, non ho, perché poi la principale attività dei giornalisti è leggere i giornali. No, leggere il giornale. Dai, vai al dunque invece di insultarmi. Leggevo sul... No, non ci stai insultando. Tu non sei un giornalista. Dai. Leggevo che hanno passato dal... Allora, hanno chiuso la forestale e l'hanno passata ai carabinieri. Dentro alla forestale c'era il CITES, vado a memoria, adesso me lo ero tirato fuori, che autorizzava l'esportazione delle pelli per evitare che le pelli siano di animali in via di estinzione, di cui l'Italia è notoriamente piena. Come al solito, facciamo le riforme, poi c'è qualcuno che si dimentica del decreto attuativo. le famose riforme fatte male di cui parlavamo prima, l'ufficio eccetera eccetera, morale della favola, il CITES l'hanno chiuso, non c'è nessuno, e quindi tu adesso vuoi... chi vuole esportare le pelli come fa? Le tiene lì, poi qualcuno ci penserà prima o poi a dargli l'autorizzazione. È una legge decaduta per mancanza di attuatori, per così dire. Da quanto ho letto, sì, adesso è una cosa che ho letto qua, ma visto che prima parlavamo delle cose, e non sarebbe la prima volta che succede in Italia che fanno un nuovo regolamento, no, e poi tu vai lì e gli dici, ma adesso cosa facciamo? Direi che non è la prima volta, no. Direi che non è la prima volta, no. E quindi questi sono i problemi poi che colpiscono le aziende e l'export. Io ti dico, in questa settimana non me l'aspettavo, ma invece la Corte Costituzionale, al di là della sentenza sull'articolo 18, eccetera, ognuno la può pensare come vuole, abbiamo parlato in molte trasmissioni, io non mi aspettavo, da professionista quale sono, la vittoria che la Corte Costituzionale ha portato al nostro fronte, perché la Corte Costituzionale, pochi sui giornali non l'avete detto, ma ha dato ragione all'impugnativa che la cassa previdenziale del dottore commercialista ha fatto contro il prelievo straordinario forzoso imposto al governo Monti in crescita pluriennale per 3 anni. La vittoria di chi come me fin dal primo momento ha gridato Stato ladro, perché la previdenza privata, le casse professionali, non potete fargli un prelievo forzoso patrimoniale. Io ricordo a tutti che quelle casse previdenziali private sono sottoposte a doppio regime di tassazione, sull'erogato e sui rendimenti, e c'era questo terzo patrimoniale. Io ho gridato Stato ladro, tutti muti, tutti zitti, molte casse professionali non hanno fatto impugnativa, una sì, la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, e allora, cari ascoltatori, posso dirlo, senza che nessuno anche qui mi smentisca, come vedete sì, lo Stato è certificato ladro anche dalla Corte Costituzionale. Tra l'altro ieri sera era un incontro. E per di più vi aggiungo, lo Stato non vuole restituire il mal tolto, e faremo causa anche per avere il mal tolto indietro, ovviamente. Questo è ovvio. Ieri sera era un incontro e c'era un deputato che si occupa di innovazione, si parlava della smaterializzazione del materiale, eccetera, eccetera, e lui ha detto, no, ma se ne stanno rendendo benissimo conto i politici, perché non, si sono accorti che non entrano più le tasse, che è l'unica cosa che gli interessa. No, beh, questo in realtà hanno il segno più dell'andamento del PIL, gli andamenti tributari, quindi entrano e come. Fammi ricordare che l'Italia ha 301.000 km quadrati, la Germania ha 357.000, cioè 18% in più. L'abbiamo ricordato ai nostri ascoltatori, sì, ma noi abbiamo le Alpi e loro no. Ma allora quindi, hanno il petrolio. Va bene, allora, cari ascoltatori, grazie di averci seguito e grazie a tutti i compagni che continuano a bere. Venite in studio di più, fratelli miei, che è un'altra famiglia. Continuate solo, dovete 4, appuntamento con me, Alessandro Milano, alle 8:20, lunedì mattina, attenti a noi due, buona domenica!